Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Rieccomi fra voi, rieccomi con una nuova trasmissione, non più con le repliche come la settimana scorsa, un'assenza imprevista che ha fatto in modo che appunto la settimana precedente venisse rimandata in onda per colmare il buco che altrimenti ci sarebbe stato. Giulio Caperdoni in vostra compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, fra le 19 e le 20, questa è Eclettica, di cui sentirete musica, di cui sentirete gli incipit e di cui sentirete gli sprazzi cinematografici. Immaginazione morta immagina. Un luogo, ancora quello. Mai un'altra domanda. Un luogo, poi qualcuno, ancora quello. Striscia fuori dal sudicio letto di morte e trascinalo a un luogo per morirvi. Fuori dalla porta e giù per la strada, nel vecchio cappello e cappotto, come dopo la guerra. No, non più quello. Quadrato 5 piedi, altezza 6. Niente ingresso, niente uscita. Cerca lui in quel luogo. Sgabello, pareti nude quando la luce si accende, facce di donne sulle pareti quando la luce si accende. In un angolo, quando la luce si accende, si intassi a brandelli di jolly e dregger preger dregger. Molto bene. Luce spenta e fa che sia lì, sullo sgabello, che parla a se stesso all'ultima persona. Mormora, nessun suono. Adesso, dove è lui? No, adesso è qui. Questo era l'incipit di Quello che è strano, via, di Samuel Beckett. I cannot tolerate this type of chaos. I mean, this is a museum, not a... Do you know what museum means? It doesn't mean, ooh, Daddy, it's a big Tyrannosaurus thing. Can I touch his leg? No! Work it out, please. Will do, sir. Thank you. You have my heart. We'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star. Baby, 'cause in the dark, you can't see fancy cars. And that's when you need me there. Together we'll always share. Il gruppo inglese Time Space Repeat, con loro che si è aperta eclettica quest'oggi, con un brano che già conoscevate, The End of the World, come conoscevate, anzi lo conoscevate molto di più nella sua versione originale, probabilmente. Umbrella, sempre dall'Inghilterra, che ci siamo ascoltati nella versione di Mechanical Bride. Inghilterra, quindi, che ha aperto Eclettica di quest'oggi, dell'intera settimana, che ora lascia spazio all'Italia, in quanto è arrivato il momento del nuovo album dei La Cruz. Album che uscirà il 1° febbraio, che si intitolerà Io non credevo che questa sera. Io non credevo che questa sera, che è un album che contiene 16 brani, di cui 12 sono tracce registrate live al Teatro Novelli di Rimini con l'orchestra da camera delle Marche. Poi c'è una splendida versione in studio di infinite possibilità e 3 inediti, scritti, prodotti, arrangiati nell'estate 2007 e orchestrati da Davide Rossi. Ce n'è anche un quarto di inedito, ma non sarà compreso all'interno di quel disco, ma solo disponibile su iTunes. Poi dalla fine di marzo la band comincerà anche un tour in giro per tutta l'Italia. Ovviamente in Eclettica quello che ci ascoltiamo è uno dei 3 inediti che vi ho citato. Si intitola Mentimi. Più male, dimmi che la pioggia oggi non cadrà, dimmi che qualcuno fermerà la guerra, che il conto da pagare non arriverà. Mentimi, mentimi, mentimi, voglio un'altra bugia, voglio che sembri vera. Qualunque sia, mentimi, mentimi, mentimi, voglio un'altra bugia, voglio un lieto fine, qualunque sia. Sia. Mentimi, tutto ciò che precede dimenticare. Molte cose alla volta non riesco. Così resta alla penna il tempo di prendere nota. Non la vedo, ma la sento laggiù dietro. Per dire il silenzio. Quando si ferma, continuo io. Qualche volta si rifiuta. Quando si rifiuta, continuo io. Troppo silenzio. Non riesco. O è la mia voce troppo debole a volte, la voce che esce da me. Questo per l'arte e il modo. Questo era l'incipit di Basta, di Samuel Beckett. Tell me what the facts be, they be right past me. Audacity and some of the tracks. incipiti di questa settimana sono un po' diversi rispetto alla norma, un pochettino più ostici. Beh, d'altronde stiamo parlando di Samuel Beckett, che starà con noi per buona parte della settimana. E poi anche il film che dalla fine della scorsa invece sta caratterizzando quelli che sono gli sprazzi cinematografici. Abbiamo finalmente, da un certo punto di vista, abbandonato la trilogia che ci stava tenendo compagnia da tantissimo tempo. Ci siamo appena ascoltati White Denim con un brano che, se ascoltate Eclettica fedelmente, conoscete ormai bene, per passare invece ad una novità, un disco che è la seconda prova di una formazione che proviene dall'Oklahoma, da Norman per la precisione. Non penso di conoscere molte formazioni che vengono dall'Oklahoma. Loro si chiamano Evangelicals, un nome che è già passato qua all'interno di Eclettica e che ora escono il 22 di gennaio per Dead Oceans con un nuovo album dal titolo The Evening Descends. Formazione capitanata da Josh Jones, che ne è leader, scrive le canzoni, canta, suona la chitarra e che è accompagnato al basso e tastiere da Kyle Davis e alla batteria da Austin Stephens. Io ho scelto la traccia numero 3 dal disco degli Evangelicals. Si tratta di Skeleton Man.